quasi piccoli e fragili, solo a letto puoi conoscerli. Ragazzino, ragazzino, nel mio letto cosa farai? Ragazzino, ragazzino, guerriero stanco ti sfoglierai ed io saprò chi sei. Cosa farai, ragazzino, ragazzino?